Radiazione 6 dicembre 2013. Oggi si parlerà di pompe casi, di vegan incarcerati. Sto scherzando, sono le traduzioni sbagliate di Google. Stavo prendendo un attimo in giro su quello che è stato un articolo apparso qualche giorno fa, no, ieri, su Radiazione. Allora, ricordiamo subito gli indirizzi utili per Radiazione: radiazione@autistici.org per la mail. Ricordo, potete inviare ogni tipo di scritto, comunicato, poi qua si decide se pubblicarlo o meno. Chiamatela censura, chiamatela come cazzo volete, ma comunque si decide se pubblicarla o meno. Per i blog invece, dove trovate la controinformazione aggiornata, radiazione.blog, dove potete riascoltare le vecchie radiazioni, dove potete scaricare anche opuscoli, manifesti. Ci sono due manifesti tradotti in italiano da parte della redazione, qualche cd, volantini, insomma, e giornali e riviste. Per la radio, radiazione.listentumaradio.com. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono i Numb, poi si torna qui e si inizia subito la diretta d'azione, Hell Crush. Allora erano in Nam con il brano di Crush, si era iniziato la diretta con una provocazione leggendo una delle tante traduzioni che può fare il traduttore di Google. Sì, molto fantasioso. Molto fantasioso. Però di questo ne parleremo dopo, ne discutiamo un po'. Si spiegherà il motivo per cui è apparsa quella cosa, il motivo per cui inizieranno anche ad apparire i testi tradotti da Radiazione sul blog. Ora ci passiamo direttamente alla controinformazione. Si va ad Atene in Grecia, dove è stato distrutto un internet caffè, e ne leggiamo la rivendicazione subito così, mentre qualcuno si rifà le unghie, altro si beve il limoncello. Leggiamo questa cosa, riscaldiamo gli animi. Allora, martedì sera 26 novembre 2013 abbiamo fatto irruzione all'internet caffè Palladium, situato in via Solomu ad Exarchia. Abbiamo vandalizzato il suo interno distruggendo gli schermi e le vetrate delle facciate, ed abbiamo incendiato il server prendendo delle misure adeguate per prevenire incidenti. Di seguito siamo partiti tutti insieme in modo coordinato e in sicurezza assoluta, a fine di evitare qualsiasi spiacevole incontro con i cani della squadra di polizia motorizzata Delta. Diversi incidenti hanno raggiunto le nostre orecchie in relazione a questo internet caffè, compreso il fatto che è stato uno dei luoghi preferiti dei poliziotti nel centro di Atene, qualcosa che anche il proprietario stesso ha ammesso durante l'attacco. Ogni cittadino pacifico che si veste volontariamente con l'uniforme della polizia, tutti coloro che sono in attesa di ricevere una pacca sulla spalla dai poliziotti per aver offerto i propri servizi, ognuno la cui miseria e servilismo abbia pervaso ogni centimetro della sua personalità, dovrebbe ricordare che nulla rimane senza risposta. Faremo tutto quanto in nostro potere per dare agli infami ciò che meritano, la realizzazione del loro incubo peggiore, una risposta alle loro sottomissioni intenzionali. Hanno un nuovo, un indirizzo, dirigono i loro negozi e noi li conosciamo molto bene. La loro logica è pericolosa, hanno gli ideali logorati e hanno consapevolmente assunto il ruolo sottomesso dell'informatore. Se pensano che gli permetteremo di svolgere il loro compito senza pagare le conseguenze, allora stanno sbagliando tristemente. Che sappiano gli individui come il proprietario dell'internet caffè Palladium che saranno costantemente presi di mira da noi, perché continueremo a mostrare la nostra avversione agli informatori e ai ben intenzionati collaboratori di tutti i tipi di poliziotti. Lo dobbiamo ai nostri compagni prigionieri, a quelli che ci hanno lasciato presto e non hanno svolto la loro visione insurrezionale, a quelli che sono stati fregati dal lavoro dei sostenitori della sottomissione intenzionale, così come a coloro che continuano la lotta per il disturbo e la decostruzione dell'inerzia sociale. Dedichiamo questo attacco ai quattro compagni arrestati a Filadelfia, ci sono i nomi poi su blog, inutile leggerli, altrimenti ci metto mezz'ora io per leggerli. Forza ai sei compagni attualmente sotto processo per il caso Ventus, e per cui ci sono i nomi, a quelli che continuano la loro lotta da dentro le mura. Anarchici, anarchiche. Questa era la prima notizia di controinformazione. Ho sorvolato i nomi perché veramente sarebbe una cosa vergognosa. Quando leggo i nomi greci ci mettiamo mezz'ora, ci metto più a leggere quattro nomi dei compagni greci che tutto il testo di una paginata. Quindi vabbè, chi vuole si va a leggere i nomi, però comunque penso che chi ascolta sa benissimo i nomi dei compagni arrestati a Filadelfia e che sono obbligati nella doppia rapina di Cozzani e Vervento. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Society Burning con il brano Western, e poi dopo si torna qui e si continua con la controinformazione. so, una rivendicazione che arriva dal Messico dell'attacco ad una banca e da un autobus del corpo granatieri. A tutti i refrattari in Messico e nel mondo, ai compagni affini per coloro che combattono per la libertà. È l'ora che ripassa, al vespro, alla notte che non ha fine e conosce pietà. Luigi Galleani. Compagni, la notte del 2 dicembre, due nuclei partecipanti del coordinamento informale abbiamo fatto esplodere ordigni esplosivi nelle seguenti strutture del capitalismo e dello Stato. Nella cabina di un bus del corpo di granatieri DDF che si trova nelle strade di Esperanza e Xochicalco a Narvarte, proprio accanto al Tribunale dei Minori. La bomba è esplosa causando danni al camion. In una filiale della banca Banamex situato nell'asse 10 Sud e Xocoyoacán in Pedregal di Santo Domingo, causando danni alle infrastrutture. Questi attacchi contro le strutture di potere li rivendichiamo in solidarietà con il compagno Mario Gonzalez, che sta lottando contro la distruzione della sua individualità attraverso il carcere. Il compagno è arrivato già a 57 giorni di sciopero della fame come forma di protesta per la sua liberazione. La sua salute sta peggiorando e, come lui stesso ricorda, all'autorità non interessa. In più pensiamo che questa è una lezione da parte GDF per coloro che osano protestare ancora una volta con metodi non accettabili per la legge. Noi non possiamo rimanere con le braccia incrociate contro questa infamia, né dobbiamo trascurare la lotta che il compagno sta facendo da dentro le celle del sistema. Deciso di agire nel mondo che conosciamo, il modo che preferiamo, sapendo e sostenendo che tutti i gesti di solidarietà sono sempre necessari per trasmettere più forza e coraggio al compagno Mario ed ogni compagno che è in condizioni di fuga o di prigionia. Questi attacchi sono anche la nostra risposta offensiva per l'offensiva del governo contro lo spettro anarchico. Intimidazioni, irruzioni nelle case, le molestie, il controllo, la sorveglianza, percosse, torture, eccetera. E siamo fermamente convinti che la risposta è necessaria e diversificata, di giorno o di notte, individuale o collettiva, con o senza rivendicazione, con o senza un nucleo firmante, con molotov, pietre, macete, armi, propaganda o esplosivi. Una risposta feroce contro una bestia che ci tocca a poco sempre di più. Un caso particolare è il Frente de Salvaci Tenochtitlan. Ok, quello che è, una cosa tipo Tenochtitlan. Compagni, circa un anno fa un gruppo chiamato Frente de Salvaci Tenochtitlan ha usurpato le nostre azioni ed anche questa ultima esplosione al Banamex. Il 26 giugno dello scorso anno, 2012, è esplosa una bomba, a quanto pare accidentalmente, al compagno Mario Lopez, che ripetutamente ha affermato di essere individualista ed estraneo a rivendicazioni o gruppi di azione. Allo stesso modo rivendicò la paternità individuale dell'atto non eseguito. Questo evento ha avuto luogo nel centro di Coyoacán, a chilometri del luogo, in un'azione non coordinata con la sua. Vari nuclei cari PGG realizzano attacchi a Edomex, a Ciudad Nezahualcóyotl contro una sede del PAN, ordigno esplosivo a Tlalnepantla nella sede regionale PRI che si trova accanto al municipio e l'ultimo e più noto, un ordigno alla CFE del Picacho Ayutsuko, dove presumibilmente è stato lasciato un messaggio che ha rivendicato la responsabilità per il gruppo fascista Frente de Salvaci Tenochtitlan. Quello che derivò da questa queste situazioni fu che al compagno Mario imputarono l'attacco all'ufficio federale, alla CFE e alla compagna Felicity Rider, attualmente in fuga. Imputarono l'attacco contro l'ufficio CFE e l'appartenenza di questo gruppo di fascisti chiamato FST. Che per quello che abbiamo letto nel comunicato di Felicity, essa è estranea, contraria e ostile a queste rivendicazioni fasciste come quelle degli Aztequitas della FST. Utilizzando lo spazio dichiariamo che i nuclei del coordinamento informale CRAI PGG fino al momento in cui sono stati coinvolti Mario e Felicity, nessuna individualità era a conoscenza dell'esistenza dei compagni o dell'attività che realizzavano. Ora, sul FTS possiamo pensare mille cose, ma ci sono molte cose che ci portano a sospettare il peggio, dato che nella nostra ricerca abbiamo visto che questo gruppo esiste a quanto pare, ma non si spiega come facciano ad arrivare ai suoi testi dove facciamo le nostre azioni. Alla prima mano sta nelle demarcazioni nel giornale Excelsior, in cui in una pagina del web del giornale, in cui ha reso pubblico la rivendicazione del FST e ad afferma che il compagno Mario Lopez non appartiene a questo gruppo di merda. Nel link presente nel testo è possibile scaricare il PDF sul comunicato sospetto del FST sul sito di cedema.org. Gli individui che hanno partecipato al CARI PGG sono contro e combattiamo anche contro i fascisti e i gruppi neonazisti, così come siamo per l'annientamento della gente di ultradestra del PAN o dei sinarquistas. Noi siamo per l'annientamento di gruppi neutrali e individui come Vasconcelos, VEP, gente come Roger Huesca Priego e il suo gruppo Ultimo Reducto, Olive Chiardo, NS Salvador Borrego, a cui l'anno scorso abbiamo inviato un pacchetto esplosivo di cui non abbiamo fatto rivendicazione alcuna e non sappiamo cosa è accaduto con il regalo antifascista. Siamo contrari al fascismo e salutiamo con gioia i compagni che giustiziarono i neonazisti di Alba Dorata in Grecia. È presente sul blog, nel testo, il link del video dal sito elcommercio.pe. Tutti i fascisti sono nostri nemici e non meritano pietà, la FST tantomeno lo merita. Solidarietà con i compagni prigionieri in Messico e nel mondo, solidarietà con il compagno Mario Gonzalez. Siamo con te fino alla fine, per il conflitto con l'anarchia. Coordinadora informal, cellulas automas de revolución immediata praxedis G. Guerrero. PS, i cari PGG siano nuclei coordinati che agiscono dal 2008 senza fare alcuna assunzione delle nostre azioni, ed è stato così fino al settembre 2009, in cui apparì una rivendicazione per un'azione alla casa automobilistica Renault nei pressi dell'aeroporto, rivendicazione in cui abbiamo detto della nostra esclusiva paternità da allora fino ad oggi. Noi non abbiamo un'idea avanguardista e nemmeno militarista, siamo gruppi di azione anarchici e ci basiamo su informalità. In molte occasioni abbiamo messo in discussione l'uso di acronimi, ma concludiamo che esse sono necessarie solo come parte di una strategia e nulla più. Non abbiamo pretese a sollevare qualcuno all'insurrezione, queste sono spontanee e collettive. Assumiamo il conflitto in prima persona. Poi ci sono delle note di radiazione, ci sono degli asterischi nel testo che potete leggere anche dal blog, ci sono gli asterischi e sotto ci sono delle note che ho aggiunto, dove DF è l'abbreviazione di Città del Messico, Edomex è lo Stato del Messico e Sinarquistas è un movimento fascista messicano esistente a cavallo degli anni 30 anni 40. Come ha già detto Magna, nel testo ci sono alcuni link che ci potete cliccare e vedere alcune cose, da cui c'è il video dell'esecuzione dei due fascisti di Alba Dorata in Grecia. Ora ci ascoltiamo un brano, sono gli Spartak con il brano I Hate You, e poi dopo si torna qui e si continua con la controinformazione. I hate you, believe me. Loro erano Sparta con il brano I Hate You, ora si continua con un altro testo, uno scritto del compagno Gabriel Pombo da Silva, che è stato tradotto proprio poco prima di iniziare la diretta, che ci fa sapere sui continui trasferimenti in quest'ultimo anno, da quando è stato trasferito da Aken allo Stato spagnolo, e ci racconta anche un po' di cambiamenti che sono avvenuti all'interno delle carceri spagnole. Allora, leggiamo il testo. Gennaio-ottobre, la lotta continua. A miei amici, fratelli e o compagni. Ricordo ancora come se fosse ieri, quell'ultimo giorno finalmente abbandonai espulso quella fredda tomba ermetica settica che era il carcere di massima sicurezza di Aken in Aquisgrana, in Germania. Il 16 gennaio 2013 arrivai all'aeroporto di Barajas, Madrid, scortato dall'Interpol, e da lì mi portarono al tribunale di Plaza Castiglia, ma non prima di essere stato fotografato con speciale interesse sul petto, dove speravano invano di trovare tatuato l'acronimo FAI FRI. Suonato il pianoforte, tra virgolette, che è il prendere le impronte digitali, per appurare se in realtà ero io, devo dire che ho dovuto lasciare la Germania nel mese di dicembre, avrei dovuto lasciare la Germania nel mese di dicembre o novembre, ma fui immediatamente bloccato dal momento che la Repubblica Italiana aveva presentato un mandato d'arresto europeo alla Bundesanwaltschaft a Karlsruhe, con l'intenzione di estradarmi per via dell'operazione Ardire. Per fortuna, o per essere legalmente cittadino spagnolo attraverso un mandato d'arresto europeo presentato prima da questo paese, le Italiotas Digos è dovuto rimanere con il desiderio momentaneamente, quando l'alta corte tedesca, tra le varie gestioni politico-giudiziarie, ha deciso che le accuse indiziarie fatte contro di me da parte dei ROS erano e sono insufficienti per concedere alla Repubblica Italiana la mia estradizione. Così ho avuto la fortuna di evitare di conoscere il bel paese attraverso le sue prigioni e del sistema legale. Ingenuamente ho creduto infine che mi avevo scrollato di dosso i Digos con le accuse deliranti e poter terminare il resto del mio sequestro legale in questo paese. È impossibile descrivere su un foglio di carta tutte le impressioni, idee, emozioni che ho provato quando ho lasciato la prigione di Aken e la Germania nel suo complesso. Dopo 8 anni e mezzo sopporto vivo in questo paese, 23 ore al giorno chiuse in una cella e un'ora d'aria al giorno, per essermi rifiutati di disimpegnarmi nei lavori forzati e indossare l'uniforme carceraria, inoltre hanno rubato e sistematicamente sabotato la mia posta, con cui mi hanno tolto in maniera graduale il desiderio di scrivere nel corso degli ultimi anni, ritenevo che il peggio era stato sicuramente superato. finalmente entrato nella prigione di Soto del Real verso mezzanotte. Immaginate la mia sorpresa quando rilevo quando erano cambiate le cose nei quasi 10 anni di assenza, esilio, forzata dalla prigione ispanica. Era stupito di trovare e vedere i prigionieri stessi, veri e propri ausiliari dei carcerieri, che erano responsabili per la registrazione delle mie cose, insieme con le guardie. Questa prima impressione è stato un duro colpo per il mio morale. Sorprendentemente, dato che devo essere classificato in primo grado, incluso nel FIES senza altro aggiungere, il giorno dopo ho ricevuto il direttore e il vice direttore del carcere che mi hanno commentato e detto che li avevano chiamati gli stessi della DGIP. Letteralmente mi è stato detto che quando i dirigenti hanno visto il mio nome si sono accese le luci rosse. Mi chiesero con quali intenzioni ero tornato. Ironicamente ho risposto che le mie intenzioni sono sempre state e saranno le stesse: conquistare la mia libertà. Mi è stato comunicato che avrei terminato, che ho poi riportato in un documento chiamato frasi di liquidazione, il 10 aprile 2015 e rimarrei in secondo grado se mi trasferissero alla mia terra il più presto possibile. Quello che posso dirvi, infine, sembra che dopo più di 28 anni di carcere devo attendere solo un paio di anni per godere della mia libertà desiderata. Appartato, isolato, segregato, durante gli ultimi anni di sequestro in Germania, tutto quello che ho visto, ascoltato, vedevo, sentivo, era semplicemente allucinante. Fu un'overdose uditiva, visiva, sensoriale, emotiva, indescrivibile. In un certo caso, rispetto alle sofferenze in Germania, già mi sono sentito mezzo libero e ho imparato di nuovo a illuminarmi superandolo con il mio nuovo ambiente. Con tante persone, con tante ore nel cortile, con molti colori e bella vista della Sierra di Nevalcernada. L'unica cosa negativa era constatare cosa le guardie avevano fatto con i cortili di ora d'aria, in cui la maggior parte dei prigionieri erano diventati dirigenti della propria prigionia, oltre a guardie ausiliarie. Ovviamente fui portato ad un modulo di conflitto, al modulo 5. I carcerieri hanno cercato che condividessi una cella con un altro detenuto. Siccome mi sono rifiutato categoricamente di condividere una cella con qualsiasi prigioniero, fui condotto al dipartimento di isolamento la notte del 17 di gennaio e mi hanno anche punito con due accuse molto gravi, che sempre secondo loro avrei minacciato di picchiare il prigioniero con cui pretendevano che convivessi e mi ero rifiutato e resistito ad obbedire agli ordini delle guardie giurate, delle guardie carceriere. Dopo una giornata in isolamento, il 18 gennaio mi riportano al modulo 5 e questa volta ottengo una cella solo per me. Comunque il 30 gennaio mi hanno comunicato che rimango incluso nel FIES 5, caratteristiche speciali. Questo l'ho preso con un senso di umorismo, a meno, mi son detto, non dovrò più prendere sanzioni disciplinare sul tema condivisione cella con qualcuno. Beh, ora speravo solo di essere trasferito in Galizia, come mi avevano detto al mio rientro. Il 16 febbraio mi dicono di raccogliere la mia roba che mi trasferivano. Loro non mi dissero in quale carcere, ma supponevo sarebbe qualsiasi di quelli esistenti in Galizia. Fu sorpreso quando ho saputo che mi portavano ad Alicante. Ad Alicante, inoltre, mi notificano la limitazione e l'accettazione delle comunicazioni, telefono, eccetera. Già non capivo più nulla. I primi mesi, sia in Soto del Real Madrid, a Villena, Alicante, mi hanno posto tutti i tipi di ostacoli e impedimenti per comunicare o parlare telefonicamente sia con la mia compagna sia con la mia famiglia. Tuttavia la presenza di diversi prigionieri dell'ETA rendono il mio soggiorno più piacevole. Sorprendentemente, il 20 marzo il DGIP decide di togliermi da FIES 5 e mi tolsero le limitazioni sull'intercettazione e le comunicazioni. Inoltre mi autorizzarono alla telefonata con mia sorella, la mia compagna e l'avvocato. Ma il 3 o 4 aprile mi dicono di prendere la mia roba perché mi stanno trasferendo. Penso innocentemente che finalmente mi portano in Galizia, ma rimasi ancora una volta sorpreso quando capì che andavo a Valdemoro. E che ci faccio a Valdemoro? La risposta è stata rapida. Il 9 aprile mi portano all'audienza nazionale. I digossini erano tornati al contrattacco. Mi rifiutai di lasciare una dichiarazione e respinsi l'avvocato, quello d'ufficio, che mi avevano dato. Il 16 aprile vengo di nuovo chiamato, questa volta con il mio avvocato. Non ho nulla da dichiarare su quelle che sono le accuse del ROS e comunque mi hanno notificato la libertà vigilata per il momento, e siccome mi ritrovo a scontare ancora la condanna in questo paese per stradarmi contemporaneamente in Italia, devono chiedere una rogatoria internazionale alla Germania, dato che essi mi hanno dato alla Spagna e rifiutato le prove incriminanti dei ROS contro di me. E quindi devo finire la mia condanna in Spagna. Aprile è trascorso praticamente in Valdemore, e qui è dove ho le mie prime comunicazioni sia con mia sorella che con la mia compagna. Il 30 aprile mi ritrovo di nuovo in Alicante. Infine il 31 maggio ho il mio primo colloquio con la mia compagna, e vanno via via col tempo normalizzandosi sia le chiamate che le visite con gli altri compagni. Il 15 luglio infine abbandono la prigione di Villena con destinazione a Yama. Arrivo in Galizia il 25 luglio. Il 27 mi notificano l'intervento alle limitazioni delle comunicazioni, semplicemente perché con inizio dal 23 luglio. Voglio dire che non avevo ancora raggiunto la prigione quando il vice direttore ha deciso a titolo personale, contro la risoluzione della JVP DGEP Villena, fare un passo indietro e di violare le proprie regole, regolamenti e linee guida dei suoi superiori e la magistratura. E poiché mi rifiuto di fermare l'accordo unilaterale e arbitrario, non può pensare a qualcosa di meglio che trasferirmi nel FS5 CE il 9 ottobre. Ho semplicemente deciso di smettere di scrivere, che è sempre stata la mia finestra verso l'esterno, da quando sono arrivato in questo carcere, perché mi rifiuto che chiunque che esercita abuso di potere possa decidere a chi e quando scrivere e cosa leggere. Tutto questo è in successione fino a condanna, proprio non capisco che merda di sistema giuridico penale è questo che mi concede varie. Punto A. Prima, in Soto del Real con i 4 quarti finisco il 10 aprile 2015. B. Il secondo a Villena Alicante con scarcerazione nel 2033. Il terzo in Ayama, dove mi si dice che finisco i 3 quarti che varrebbero la condizionale nel gennaio del 2015 e i 4 quarti nel 2020. Ovviamente tutto questo, la nuova inclusione nelle FIES più limitazioni sulla corrispondenza più fine pena, è rivolta alla GVP di Pontevedra. GVP, se questa è la sua legge, dovrei essere libero e dal prossimo anno. Per tutti i compagni devo dirvi che al di là di quello che dicono i loro documenti legali e le loro sporche manovre politiche, dopo 29 anni di carcere io non entrerò in provocazioni con questi miserabili ora che la mia libertà è a portata di mano. So che il semplice atto dello scrivere, dico sul serio, può dare ai carnefici motivo di nuovi trasferimenti o modulo o reclusione e a sanzioni amministrative. La situazione carceraria negli ultimi anni di assenza forzata è cambiata, appunto che tutto è irriconoscibile per me. Vi è adesso, avviato qualche anno fa, in tutte le prigioni dello Stato spagnolo una novità, che vengono chiamati moduli di educazione e rispetto, o moduli conviviali. In alcune carceri questi moduli sono la maggioranza. Ma cosa significa questo? Coloro che desiderano farsi applicare la legge, cosa che corrisponde alla legge e non al consenso di un usurpatore, dovrebbero andare ad uno di questi moduli di rispetto, dove firmano un contratto in cui si programmano le attività che devono fare obbligatoriamente, che viola la log P, penso che sia una legge la log P, come la pulizia, studiare, fare sport, eccetera, eccetera. I prigionieri stessi sono responsabili di eseguire le funzioni delle guardie e di controllo tecnico, di dare ai propri compagni il farmaco e farmacisticamente la droga qui usata con i prigionieri, e controllare se trasportano droghe illegali o fumano o non lavorano in zone vietate. Fanno anche fare assemblee dove ognuno si nasconde dietro l'altro. Andando a uno di questi moduli significa dare o delegare tutto ai funzionari, a diritti contemplati nel log P che tante morti e sangue ci costarono ai vecchi combattenti. Dopo aver visto, e siccome mi rifiuto di ingoiare questa merda, preferisco vivere nei cosiddetti moduli di conflitto e lottare per i miei diritti, coloro che hanno combattuto, e non delegare questa responsabilità ad una banda di traditori carcerieri. Voglio sottolineare che quello che scrivo qui non è destinato ad essere un appello alla solidarietà con la mia situazione. è solo una radiografia della mia situazione, quella dei tanti altri che non hanno abbassato i pantaloni. È una constatazione che le sue leggi e diritti sono uno spreco, carta bagnata con cui loro, ho lasciato in spagnolo spesso, con cui loro virano vestiti di ordine e legittimità e quindi giustificano lo stesso monopolio della violenza legale e armata. Quello che penso e sono stato, e tuttora lo faccio su scala ridotta, che riflette nella mia scrittura e in ogni atto della mia vita. La mia solidarietà è ora, come sempre, con tutti coloro che lottano, mai vinti e mai arresi. Il lotto fino a quando saremo tutti liberi per l'anarchia a Yama, ottobre 2013. E dopo questo chiarimento che ci ha fatto avere Gabriel, oramai si sapevano notizie proprio col contagocce da quando era stato trasferito in Spagna, si sapeva dei continui trasferimenti, ma comunque non si capiva bene il suo stato psicologico, il suo stato di salute e tutto quello che ne comporta la detenzione. Fortunatamente dopo quasi un anno Gabriel fa sentire la sua e ci ha spiegato in questo testo un po' tutto. Ora ci ascoltiamo un brano, sono That Politics con il brano Moving Like That, e poi dopo si torna qui e si parlerà di traduzioni, Google Translate e roba varia. Allora erano Death Politics, avevo detto subito dopo della lettera di Gabriel che avremmo parlato un po' su quanto riguarda la divulgazione della controinformazione in rete da parte di siti e blog. Io ho lasciato due righe proprio ieri in cui dicevo: da oggi in poi sotto gli articoli che appaiono su blog di radiazione apparirà anche chi è stato tradotto il solito sottoscritto almeno su radiazione. Non è un vago né tantomeno un diritto d'autore, a cui sono sempre stato contrario, ma sicuramente oggi in Italia a fare le traduzioni siamo rimasti in pochi, forse due o tre, dallo spagnolo sicuramente nessuno, mentre tutti gli altri riempiono pagine dei loro blog e siti di cose tradotte senza un minimo di collaborazione. La fonte nemmeno mi interessa che appaia, ma la collaborazione da parte di altri sì. Inoltre premetto che le traduzioni sulla reazione non sono fatte con il traduttore di Google, che viene spesso usato in altri siti e blog molto erroneamente, dato che cambia il significato a qualsiasi tipo di scritto. Se qualche passaggio di un testo non lo si capisce, si attende che la traduzione passi da una lingua all'altra sperando di capirne meglio il significato, e quindi dopo viene pubblicato. Quindi invito tutti i siti e blog ad evitare il traduttore di Google, anche per rispetto di chi redatta i testi che poi appaiono sulle nostre pagine internet. E queste erano le due righe che avevo scritto io su blog ieri, dopo l'ennesimo, l'ennesima lettura di alcuni articoli senza capo né coda, senza nessun significato. Io ho iniziato la diretta dicendo: si parlerà di pompe caso o di vegan compagni, progetto Palma, progetti Palma. Praticamente pompe caso sarebbe il caso Bombas. I vegan compagni sono i compagni detenuti, e il progetto Palma doveva essere un progetto Phoenix, tradotti così in alcuni siti e alcuni blog. E all'epoca ho sbagliato anche su radiazione, perché mi ero fidato dalla traduzione, quindi comparve questo progetto Palma, perché veniva una traduzione direttamente dal greco, e non sapendo e conoscendo minimamente il greco, mi era affidato a chi greco è, e l'aveva tradotto in italiano, e invece di progetto Phoenix aveva tradotto progetto Palma. Non capisco, seguendo quale logica è riuscito ad arrivare dalla Fenice alla Palma. Infatti, perché poi penso che siano totalmente diversi anche in greco i due termini. Beh, comunque, cioè, continua da molto tempo e molti compagni si affidano a questo strumento che è Google Translate. Insomma, con tutta la critica che da una parte si fa alla tecnologia informatica, dall'altra parte proprio ci si affida ciecamente alla traduzione di una macchina, quindi non come un aiuto che può essere, come tutti noi insomma che facciamo traduzioni, utilizziamo il vocabolario per comprendere. Al limite, all'inizio si può usare pure la traduzione su Google come una cosa riassuntiva, poi almeno io spiego come vengono fatte sulla reazione. Praticamente si prende la traduzione di Google Translate, però poi si mettono uno a fianco all'altra, la traduzione di Google Translate e il testo originale. Una cosa è giusto per non riandare a ribattere tutto il testo completamente, perché ovviamente non sbaglia in tutto, sbaglia in alcuni passaggi. Quindi ci si mette là, riga per riga, parola per parola, frase per frase, e si ricorregge il tutto. Allora, in questo senso ci avrebbe questo ci avrebbe come in questo caso ci avrebbe senso usare il traduttore di Google, mentre prendere i testi e tradurli con Google Translate e buttarli là su blog vuol dire anche non rileggere quello che è stato pubblicato. Cioè, nel momento stesso quando si fa una traduzione, di solito si riguarda la propria traduzione, si correggono degli errori che possono essere dei semplici errori di battitura. Non lo dire, perché nell'ultima traduzione ho fatto errori di battitura. Però insomma, cioè, prima di pubblicare di solito insomma si dovrebbe guardare quello che abbiamo noi stessi scritto, o soprattutto comprendere quello che abbiamo pubblicato. Perché chi pubblica un testo fatto da Google Translate, secondo me, vuol dire perché non ha neanche un interesse verso il testo che ha pubblicato. Cioè, cosa trasmette? Cioè, cosa un testo con Google Translate che totalmente cambia il significato del testo, quindi non si tratta solo di qualche traduzione sbagliata, ma è proprio il significato in sé che viene stravolto. Quindi a questa persona che pubblica un testo così non interessa neanche trasmettere il significato di questo testo, e quindi viene svalorizzato la persona che ha scritto il testo originale. E d'altra parte, quello che è cosa peggio proprio è fare in questo modo della disinformazione, fa passare, cioè, perché per concetti questo... che non ha detto la persona, il detenuto, il compagno, il gruppo di compagni che hanno redatto il testo, insomma, disinformazione si chiamava. Sì, disinformazione. Che per disinformazione, la perché cosa certe più volte è che non vengono letti i testi, però molto spesso... io come quello lettore, io che leggo, cioè io capisco qualcos'altro di quello che è stato detto nel testo originale, quindi secondo me è anche disinformazione, tra virgolette, non dico che è intenzionata dare una disinformazione, ma in questo modo veramente può essere sconvolto l'intero significato del testo. Ovviamente se uno non conosce bene la lingua gli può sfuggire qualche passaggio, almeno qui praticamente se sfugge un termine, allora si cerca di prendere la frase e cercare di scrivere lo stesso contenuto, però in modo diverso. L'importante è che passa il contenuto, non la forma. Invece, si parlava poco fa, queste traduzioni fatte con il traduttore di Google lasciano capire anche che non c'è nemmeno la cura, nemmeno la voglia di andarsi a leggere cosa c'è cioè cosa si va a pubblicare, non si capisce il significato, non si capisce, cioè alla fine rimane una cosa fine a se stessa, cioè pubblicare per pubblicare, come se fosse un'agenzia stampa, sì. Cioè basta buttare le notizie una dietro l'altra. Cioè io continuo a ripetere, cioè questo cieco affidarsi a una macchina, no? Che diventa quindi lei stessa, attraverso i propri algoritmi, il traduttore, quindi a mettere lo stesso livello me come persona, quindi essere umano, a livello della macchina, cioè il mio cervello che lavora come una macchina, che penso che ormai, cioè neanche l'informatica ancora è riuscita ad arrivare a questi livelli di comprensione dei testi comunque. E poi c'è una svogliataggine, sì, assoluta a fare traduzioni. Io l'ho visto nell'ultimo anno, dove traduzioni in italiano non ne vengono fatte per niente, le poche traduzioni che stanno su altri siti e su altri blog sono dei copia e incolla da altri siti che sbagliano la traduzione in italiano, e quindi anche in italiano vengono a riportare, e là è ancora peggiora la cosa, perché voglio capire il greco che traduce male l'italiano, ma l'italiano che va a copiare dal greco e scrive male l'italiano sul suo blog o sul suo sito, cioè fa tanto pensare. Quindi sarebbe bello che tutti ci muovessimo, facessimo muovere un po' il culetto dalle sedie, e invece di prendere e fare i copia e incolla ci si mettesse là e si iniziasse a fare una bella rete di traduzioni, che esiste già in giro per il mondo, in Italia non esiste. E questo l'ho notato anche su dei manifesti, ho detto che sono stati tradotti dei manifesti, uno dall'inglese e un altro dallo spagnolo. Quello dall'inglese era il manifesto in solidarietà con i processati per la doppia rapina in Benevento e Cozzani, quello spagnolo è quello in solidarietà con i 5 arrestati a Barcellona. Ebbene, vengono pubblicati in altri siti senza nemmeno il titolo, senza nemmeno, cioè, nemmeno di che cazzo si sta andando a parlare. Fortunatamente in quello che è stato pubblicato in qualche blog c'era scritto sotto solidarietà con i quattro implicati nella doppia rapina del Bendo e Gozzani, altrimenti non c'è nemmeno il titolo del manifesto, non c'è un cazzo, non c'è nessun riferimento. Questo dimostra l'interesse dei curatori del sito o del blog che hanno verso i compagni, cioè non è solo verso la notizia in sé, perché dietro la notizia ci stanno delle persone in carne e ossa, quindi secondo me è anche una mancanza di rispetto proprio. E quindi penso che dovrebbe esserci comunque più collaborazione per quanto riguarda queste traduzioni, e anche, cioè, che i suggerimenti siano ben accolti e non subito su un piede di guerra, anzi una collaborazione è più che auspicabile, sia a livello all'interno di un paese sia a livello internazionale, perché più lingue conosciamo più abbiamo possibilità di arricchire le nostre conoscenze di quello che succede negli altri parti del mondo. Poi va a finire che è l'unico blog che traduce in italiano dall'estero, sbaglia un termine e ne tirano fuori i pipponi di humor francese. Questo già ne abbiamo parlato. Questo sì, dove... questo è l'esempio. Pensavo, per un termine sbagliato questo, in una traduzione di 3 pagine, qualcuno se ne è risentito. Per quanto riguarda la disinformazione, poi a parte le traduzioni, ho letto delle cose che sono veramente oscene, andando a dare uno sguardo sui vari siti internazionali. La prima arriva dalla Russia, un blog di compagni russi, io faccio i nomi perché mi frega un cazzo, From Russia with Love, dove pubblicano un articolo in solidarietà con i manifestanti in Ucraina. I manifestanti in Ucraina, perché stanno muovendo i manifestanti in Ucraina? Vogliono entrare nell'Unione Europea e il governo non ha firmato l'inizio di trattative per entrare nell'Unione Europea, e migliaia e migliaia di persone sono capaci quindi di scendere per questo motivo in piazza, e questo blog ci dà 10 motivi, se non sbaglio, per quali sostenere queste proteste di piazza per entrare in Europa. Un'altra cosa che mi ha lasciato allibito, l'ho trovato su un altro sito, 325 No State, dove stamattina avevo iniziato una traduzione, stavo ancora ricoglionito di prima mattina, ho iniziato a tradurre. Era un testo rivendicativo pubblicato su questo sito, in cui finiva per solidarietà e esilio a Edward Snowden. Edward Snowden, lo ricordiamo, è un ex agente dell'FBI, quello che faceva proprio il gioco sporco dell'FBI, quello che ha messo le mani, ha controllato tutto e tutti, poi dopo ha cambiato idea e si è cantato pure sua madre. Però in frattempo, cioè, andare a fare un'azione solidale, pubblicarla su un sito di compagni in cui finisce con la solidarietà ad Edward Snowden, per me è una grande cacata. Non, beh, così ci piacerebbe, insomma, sì, capire il motivo che ha spinto questo blog a pubblicare, insomma, questa notizia, perché a me generalmente sfugge il motivo di cosa ci fa, insomma, una rivendicazione simile su un sito dei compagni come 325. Sì, molto spesso vengono, cioè, si parla sempre guardando altri siti, questo accade più in Sud America, chiamare compagni chiunque, cioè senza andare a specificare. Allora ti capita di iniziare a fare una traduzione di una lettera di una persona che loro chiamano compagno, e a fare iniziare a fare un po' di traduzione pure mentale, poi c'è qualche sigla a cui appartiene il cosiddetto compagno, ti vai a fare la ricerca su Google, stavolta la ricerca la puoi fare di quella sigla e ti viene fuori nuclei comunisti, gruppi comunisti, ultracomunisti, stalinisti, tutti i compagni, tutti i compagni. E queste sono anche le conseguenze di una mancanza di, insomma, diciamo di collaborazione, perché cioè, ci giungono notizie da territori lontani, territori che non conosciamo. Noi prendiamo la notizia per quella che è, quello che riusciamo a leggere, e spesso non conosciamo la situazione vera e propria del paese in cui proviene la notizia, e quindi questi compagni certe volte non risultano essere dei veri e propri compagni, e proprio per la mancanza di una collaborazione internazionale, perché che ci potrebbe spiegare la situazione negli altri territori per noi più lontani, come possono essere la Russia o oltreoceano, il Canada, eccetera. Allora, noi se diciamo tutte queste cose, lo ricordo che la reazione, come sottotitolo, c'ha riflessioni, provocazioni e musica, quindi sono delle provocazioni, quindi che non venissero prese come delle offese, ma venissero prese come il contrario, un invito a riflettere su certe cose. Qua non si offende nessuno, qua si fa la provocazione pure ironica, però l'intento è quello di far capire a chi ha sbagliato, in modo ironico, in modo che di ricorreggere il tiro e la prossima volta non sbagliare più. Quindi vabbè, di prendersi magari anche un vocabolario fatto di carta ogni tanto, non sì, solo Google Translate. No, ci sono pure vocabolari. Ci sono vocabolari, possiamo anche mandargli qualche link di questi vocabolari. Ci sono i vocabolari in rete, che non sono i Google Translate, ma sono vocabolari veri e propri. Allora, passiamo subito prima di ascoltarci un altro brano, un'altra notizia che arriva dall'Italia, quindi non c'è bisogno di nessuna traduzione. Dove è iniziato il processo a Ferrara per i compagni, leggiamo direttamente il testo preso da informazione.info. È iniziato a Ferrara il processo contro tre compagni anarchici, Alessandro, Francesco e Manda, per l'occupazione della sede estense del quotidiano Il Resto del Carlino. Nel tardo pomeriggio del 15 febbraio 2010 alcuni solidali si erano intrufolati negli uffici del giornalaccio per srotolare uno striscione e raccontare al megafono quanto avvenuto ad alcuni compagni antifascisti che due giorni prima erano stati caricati e fermati nel tentativo di impedire la sfilata di Fiamma Tricolore a Rovereto. Il 27 novembre 2013 si è svolta l'udienza filtro, il processo riprenderà a febbraio 2014. Anche qua io non mi ricordo il momento, ma parlare di antifascisti così, cioè, è un mondo molto vario, molto vasto e variopinto. Si passa dall'anarchico, che si definisce antifascista, che è una grande cacata, fino all'antifascista, antifascista, nazionalista, tutto quello che concerne. Allora, ora ci ascoltiamo, dopo questo piccolo sproloquio, ci ascoltiamo un brano degli Absolute Minds, Deficit Mindset, e poi dopo si torna qui con la controinformazione. Be when you don't agree. Dal blog di Radio Azione potete scaricare anche il manifesto di solidarietà con i 5 anarchici di Barcellona. Allora, prima di iniziare la lettura, saluto mio fratello M.A. che dice: chi si offende è un fedente, e noi siamo d'accordo. Pienamente d'accordo. Il manifesto è stato tradotto da Radio Azione, e leggo il testo del manifesto. Solidarietà con i 5 anarchici di Barcellona. Il 13/11/2013 la Polizia Nazionale arresta 5 compagni in base alla legge antiterrorista. 2 di loro si trovano in carcere preventivo regime FIES e gli altri 3 in libertà con accuse. Questo attacco del Ministero degli Interni fa parte del colpo che sta subendo una parte dell'ambiente anarchico ed è inserito in un contesto nel quale i politici prevedono sollevamenti sociali ed azioni che rispondono alla miseria dentro la quale ci mantengono per sostenere il loro commercio ed il loro potere. Lo Stato non dubita sul esprimere chi si chiede e attacca ciò che ci opprime. La stampa non ha dubbi sull'essere parte dell'apparato repressivo della polizia. Noi non dubitiamo sul solidarizzare con i nostri, ad opporci a chiunque vuole imporci la sua volontà. Settimana di solidarietà internazionale dal 16 al 22 dicembre. La settimana di solidarietà internazionale si intende come una settimana di iniziative l'iniziativa è intesa in tutto il mondo fantasioso, fate voi, la settimana è dal 16 al 22 dicembre. Passiamo allora adesso al testo per il caso di arresti dei 5 compagni anarchici a Barcellona, che furono arrestati 13 novembre 2013, accusati di appartenenza ad un'organizzazione terroristica e di essere gli autori di aver collocato l'ordigno esplosivo nella Basilica del Pilar. Trasferiti all'Audienza Nazionale, tre di loro sono stati rilasciati con accuse 5 giorni dopo, essendo gli altri 2 compagni incarcerati. Tutti sono accusati di appartenere a un'organizzazione terroristica, tentata strage, cospirazione di strage. I compagni detenuti, Francisco e Monica, sono attualmente in regime FIES-2 nelle carceri di Madrid, di Navalcarnero ed Estremera. Sono su di morale e con grande forza. L'intera operazione poliziesca è stata costruita su un elevato grado di sensazionalismo mediatico, in cui la stampa ha insistito molto sulla pericolosità degli arrestati, pubblicando anche le loro fotografie, nonostante sia vietato dal codice deontologico giornalistico, come appartenenti a un'organizzazione terrorista con un nome più lungo di quello di un film di Almodovar, e nella pericolosità e nel carattere internazionale della stessa. Povera imitatrice di Al Qaeda. Chiaramente la stampa ha reso pubblico ciò che gli agenti di polizia gli hanno riferito e detto di pubblicare. Svolgendo il loro ruolo, hanno cercato di creare un clima di paura e allarme tra la popolazione, le cui preoccupazioni non sono quelle della sorte di una chiesa o quella di essere uccise in un attentato anarchico, ma quelle delle conseguenze quotidiane più crudeli della rapina capitalista e le aggressioni dello Stato. Se un terrorista è colui che infonde terrore, i media non sono meglio di Al Qaeda. Che dire davanti a questa situazione? Semplicemente che la tradizione anarchica è stata sempre fertile nei suoi attacchi e difesa contro il potere, della parola e di azione, mediante gli esplosivi, sì, ma anche mediante gli scioperi, le sedi o le pubblicazioni. Inoltre, ha sempre voluto costruire un modo senza governanti o governati, senza sfruttamento e oppressione, e quindi ha sempre voluto distruggere questo mondo dell'autorità, la miseria, l'infamia, in quanto è totalmente incompatibile con la libertà. Nonostante quello che dice lo Stato e la stampa, nonostante il comportamentismo e la pacificazione sociale applicati mediante il civilismo e altre ignominie anestetiche per cui la popolazione lavora, consuma e crepa, la lotta contro la dominazione continua con i mezzi che sono necessari. Violenti o duri che possono essere, non arrivano nemmeno alle suole delle scarpe dell'ultraviolenza sistematica dello Stato e del capitalismo, che condannano allo sfruttamento, alla fame e alla morte miliardi di persone. Che dire della Chiesa Cattolica? Responsabili di migliaia di morti, di indottrinare e terrorizzare fin dall'infanzia milioni di menti, di dettare le loro aberranti idee su milioni di corpi, di fare affari sulla povertà e la sofferenza. Un'organizzazione gerarchica del terrore e della repressione come è la Chiesa, di qualsiasi tipo, non merita nessuna stima quando è attaccata. Che dire della monarchia? Parassita istituzione che vive, come la Chiesa, a nostre spese, che collega lo Stato e l'esercito, apparati di repressione e di autorità. Le sventure della Casa Reale non ci possono provocare nessuna lacrima. Che dire delle banche, delle imprese, dei politici? La loro distruzione la potremo solo salutare con un sorriso di felicità. Ma mai è menzionata la ingiusta e crudele faccia inerente ai nostri nemici. Come non potrebbe essere altrimenti? L'ordine deve essere mantenuto e i fattori del disordine isolati e combattuti. Niente di più logico da parte dello Stato, del capitalismo e dei suoi lacchè. È loro dovere. Il nostro dovere autoimposto è quello di sostenere i nostri compagni e continuare lottando fino a quando l'edificio dell'autorità non rimanga pietra su pietra, fino a quando non restano carceri in piedi, fino a quando non rimanga mai più nessuno che dica ad altri ciò che possono fare. Tutta la solidarietà con i detenuti di Barcellona, così come tutti i compagni perseguitati, detenuti, repressi in lungo e in largo a tutto il globo terrestre. Morte allo Stato e viva l'anarchia. Anarchici di Barcellona, seguono gli indirizzi per iscrivere ai compagni: Monica Andrea Caballero, Sepulveda, carcere di Madrid, e qua avete anche il di Francisco, e troverete tutto l'indirizzo, tutti gli indirizzi. Che c'era il quando riguarda lo scritto da parte dei compagni catalani in solidarietà con Francisco, Monica, ma anche con gli altri tre compagni arrestati il 13 novembre e poi rilasciati dopo aver trascorso 5 giorni nelle sezioni dell'antiterrorismo in Spagna, a Barcellona. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Hunter Art, il brano è di Antagonist, poi dopo si torna qua nemmeno a fare la posta con una lettera, con una prima lettera che arriva da carcere di Francisco Solar Dominguez. Allora erano di Hunter Art con il brano di Antagonist. Allora, come detto Poco fa, prima del brano, ci leggiamo la prima lettera che ci fa arrivare Francisco Solar dal carcere madrileno. Non lasciamo dubbi, spazio a dubbi. Come anarchici in costante guerra contro lo Stato capitale, in tutte le sue forme contro... Questo è una realtà, ma a volte, soprattutto quando il potere agisce con tutta la sua brutalità, gli sguardi si confondono, dando luogo a posizioni ambigue e confuse. Ho bisogno di manifestare la coerenza e non dar luogo a discorsi e pratiche vittimistiche e disfattisti. Forse ora dovremmo fare un passo indietro, ma sempre per avanzarne cinque nell'incitante cammino di incertezze per la liberazione totale. Un grande abbraccio a tutti i prigionieri anarchici chiusi nelle carceri in tutto il mondo, in particolare a Juan Aliste, Marcelo Villarroel, a José Miguel Sánchez, con i quali ho avuto l'opportunità di condividere le esperienze all'interno del carcere, senza incertezza di quello che verrà, ma senza perplessità contro il potere. Per l'anarchia, Francisco Solar. E questa era la lettera di Francisco Solar, queste poche righe che fa avere subito dopo la sua carcerazione. Invece ora ci andiamo a leggere un'altra lettera che arriva dal Messico. Si è letta all'inizio l'azione in solidarietà della coordinatora informale Brasenis Guerrero, in solidarietà con Mario Gonzalez, e di Mario Gonzalez andiamo a leggere la prossima lettera, che inizia così: a tutto l'ingovernabile nel mondo, a tutte le organizzazioni di solidarietà, alla libera informazione, alle persone in generale. Ho mantenuto uno sciopero della fame per 51 giorni e in primo luogo voglio ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato solidarietà in vari modi diversi con la lotta per la mia libertà. Oggi dalla mia stanza isolata in ospedale a Tepapan posso ascoltare gli slogan gridati per la mia libertà. La loro presenza mi sta alimentando e riempiendomi di forza. Il 26 novembre il giudice ha risospeso il mio ricorso. È ovvio che lei non si preoccupa per la mia salute e vuole solo continuare a tenermi rinchiuso, anche se lei non ha prove per farlo, e lasciarmi morire qui. Ma che non sarà così facile, perché tutti i nostri sforzi non possono passare inosservati, e che lo vogliono o no, prima o poi ci sarà la mia scarcerazione. Le povere menti dei funzionari e politici non possono nemmeno credere che diamo la vita per un sogno. Pensano di essere dei supportati dalle loro leggi, che riducono la nostra libertà. Vogliono punire l'incorruttibile, l'incorreggibile, che non accetterà mai il loro gioco, o le loro regole, o le loro briciole. Sono sicuro che presto ci vedremo anche gli altri per le strade. Io lo so che uscirò di qui. La rivolta continua, non si può tornare indietro da questo sentiero. Mario Gonzalez, 28 novembre 2013. Quindi la lettera è pure di pochi giorni fa, una settimana fa. Quindi abbiamo letto le due lettere in solidarietà con due lettere che arrivano dal carcere, una di Mario e l'altra di Francisco. Io ricordo ancora l'appuntamento per la prossima diretta, che è di lunedì, visto che Marcello sta ascoltando e manda messaggini sulla chat e manda anche slogan: chi si offende non fedende, questo lo prenderemo come slogan fisso sulla reazione. Ricordo la diretta di lunedì prossimo, sempre alle 17. Ricordo la diretta di lunedì, cioè, oltre alla controinformazione e la musica come avviene per il venerdì, anche la lettura, si fa anche lettura di libri. Stiamo leggendo, siamo arrivati alla quarta diretta con la lettura di Veracruz di Valerio Evangelisti, Storia di pirati. Quindi storie che possono interessare anche agli anarchici. È un racconto, è un racconto, non è basato su una storia vera, anche se lui prende spunto da vari testi storici sui pirati. Quindi non è un testo ideologico. Finalmente non è un testo ideologico. Finalmente non è un testo ideologico, e quindi non c'è da scrivere pippe mentali su Valerio Evangelisti, che potrà essere marxista, leninista, può essere anarchico, a me non frega un cazzo. Si leggono. E in questo modo potremmo anche fare a meno di leggere tutti i romanzi. Sì. Anche la Mandellosa Maggiore, Sergio Spiateschi, parte da contrabbandiere, arriva a diventare un ladro, e Nessuno ci salva, finisce a diventare una spia. Quindi cioè, non si dovrebbe più leggere niente di nessuno. Togliersi il piacere della lettura per dedicarsi solo ai classici dell'anarchismo. Anche Bakunin si è rincoglionito in vecchiaia, quindi anche Bagunin non andrebbe letto a questo punto. Vabbè, dopo questa mini frecciata ci ascoltiamo un brano di Time Tiffany e poi dopo si torna qui con l'ultima notizia di Controinfo, una rivendicazione. Si è partito bene e si finisce bene. Time Tiffany con il brano Show Me What You Got. Allora, concludiamo in bellezza con una notizia che ci arriva dall'Argentina, precisamente da Buenos Aires, dove sono state incendiate due pattuglie della Polizia Federale. Leggiamo il testo rivendicativo. Operai armati, pronti a uccidere, forze dell'ordine e della legge, servi dei potenti, assassini pagati. È la Polizia Federale Argentina. La guerra psicologica fa parte della guerra sociale che noi affrontiamo contro ogni forma di autorità, ma non è quella che scegliamo e promuoviamo. La nostra guerra è fisica, è quella di attacco diretto contro gli oppressori ed i loro averi. Per noi non è sufficiente sapere che il nostro nemico è consapevole del fatto che potrebbe essere attaccato, ma che noi sappiamo che attraverso un attacco lo sappia. Anche se il nostro interesse fosse comunque psicologico, pensiamo che questo interesse viene alimentato direttamente da una realtà fisica che si concretizza tramite l'attacco diretto, come abbiamo già detto. Domenica 24 novembre 2013, tra le ore 1:30 e le 2 di notte, abbiamo attaccato con dispositivi incendiari due pattuglie della Polizia Federale Argentina, uno del commissariato 41 e l'altro nel commissariato 27. Forza al compagno Ilya Romanov, imprigionato in Russia dopo essersi ferito a causa della detenzione di un ordigno che stava preparando per attaccare la polizia. Solidarietà con i compagni Francisco Solare e Monica Caballero in detenzione preventiva in Spagna, accusati per l'attentato alla Basilica del Pilar a Saragozza. I nostri saluti in complicità piena di amore e di anarchia per i compagni Alfredo Cospito e Nicola Gai, imprigionati in Italia e orgogliosi membri del nucleo Olga Fai Free. Amigos de la Tierra, Federación Anarquista Informal. E quindi finiamo con la sigla di cui siamo accusati da Oltrappe di pubblicare solo esclusivamente i testi. Solo i testi, sì, della FAI. Sì, quasi come potete notare in tutta la trasmissione abbiamo solo letto della FAI. Si è letto solo della Federazione Anarchica Informale, altre sigle nemmeno ce ne frega un cazzo. Mai viste sul blog di Adorazione altre sigle? Ma come non si è mai parlato di Belgio? Come non si è mai parlato della Germania? Come mai non abbiamo parlato della Germania? Non si è mai parlato della testata di Zidane a Materazzi o del Roland Garros in Francia? Cioè, vabbè, chiudiamo con questa ulteriore provocazione giusto per allargare la rete dei litigi in tutto il mondo. Già in Italia È finito, concluso ormai in Italia, con tutti sono rimasti pochi, sì. gli amici e i compagni sono pochi. Poi dopo si è litigato con tutti, ora è ora di passare oltre i confini, perché ovviamente l'anarchismo non conosce, gli anarchi non conoscono i confini. Abbiamo fatto l'inverso di Napoleone, da Napoli si parte e si va in Francia. Quindi vabbè, dai, dopo queste piccole cazzate ricordo gli indirizzi utili per radiazione@distich.org. Ma saluto il compagno che ha scritto l'unica mail fino ad ora per quanto riguarda la lettura che vengono fatte su Radiazione, che ha fatto i complimenti, e questo lo leggiamo che ci hanno fatto i complimenti, perché di solito ci mandano a fare in culo, quindi una volta che ci fanno i complimenti li leggiamo e salutiamo il compagno di cui non diciamo il nome, ma è unico, quindi se hai mandato la mail e stai ascoltando sai a chi sono rivolti i saluti. Quindi redazione@autistici.org per la mail, invece per il blog, dove già da domani potete riascoltare la diretta d'azione di oggi, dove potete riascoltarvi le vecchie dirette d'azione, dove potete scaricarvi opuscoli, libri, manifesti, cd e quanto di più ne avremo più ne metteremo a disposizione. Per la radio redazione.listen2maradio, appuntamento a lunedì ore 17 con controinformazione, lettura di Veracruz e musica, qualche provocazione, quella non mancherà mai, ma soprattutto anche con il continuo, la terza parte del racconto da 013. Vi lascio con un brano Tom B di Dr. Doomsday e l'appuntamento è a lunedì. Shoes without regard. chi si offende è un offendente.